Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, tutto quello che non sapete ancora di Rosetta, la cometa. E tutto quello che non sapete ancora sui jeans ecosostenibili. E adesso incominciamo. Bene, allora questa sera abbiamo con noi il direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale di Milano, che è Patrizia Caraveo. Buonasera Caraveo. Buonasera a voi. Buonasera. Che però ci diamo del tu, perché tu, insieme a questa carica importante che hai, però scrivi forse più di noi su giornali, soprattutto sull'Inserto del Sole. E su spazio e dintorni. Su spazio e dintorni. Patrizia, noi ti contattiamo perché, come facciamo spesso, abbiamo accumulato un po' di domande, po' di curiosità, sia nostre che degli ascoltatori, sia della redazione. Esatto, fatto un mix su Rosetta e facciamo sempre questo, cioè aspettiamo un po' che arrivino tante informazioni, vediamo dove ci sono dei buchi e poi anche gli ascoltatori ci scrivono e proviamo a risolverli uno per uno, perché insomma sulla missione di Rosetta si è detto tanto, quindi sì. non ci sembra necessario insomma ripetere tutto quello che è la missione in sé, però ci sono venute un po' di domande sia a noi che agli ascoltatori. Allora direi di partire. Dai, la intanto prima, la prima, che è quella che ci introduce all'argomento. Allora, abbiamo visto che questa cometa è un pietrone gigante, insomma 4 chilometri di diametro, volante e roteante. Allora ci siamo subito chiesti com'è possibile agganciarlo? Com'è possibile che un oggetto, abbiamo detto un oggetto, il primo oggetto umano che arriva su una cometa, com'è possibile che si possa posare sulla sua superficie? Ma anche perché nei film ci arrivano sempre queste immagini di dei pietroni, appunto, di 4 chilometri che arrivano verso la Terra sempre roteando. La cometa Santa 7P, e con questo nome terrificante dai due scopritori russi, effettivamente è un pietrone che ruota come tutti gli oggetti celesti, e il suo periodo di rotazione però non è così terrificante, è di 12 ore, tutto sommato ruota gentilmente, e quindi la rotazione non ha posto nessun particolare problema a coloro che hanno dovuto pianificare l'atterraggio. O l'accometaggio, si può dire? O l'accometaggio. Mm. Secondo me sì, si può dire. I puristi sostengono che è bruttissimo. Uno si può dire si è posata sul suolo della cometa. Ok. Ecco. Va bene, però insomma ruota lentamente e quindi il robottino ha avuto la possibilità di approcciarla con calma. Senti, l'altra domanda è questa. Le comete, anche appunto quelle famose che ogni tanto appaiono dopo 25 anni che vediamo nel cielo, hanno questa coda di gas, di detriti, no? Che vediamo fin da terra. Allora viene da dire, ma poi abbiamo ricevuto delle foto invece della cometa molto terse, pulitissime, e questo è il primo interrogativo. Il secondo è, se c'è questa grande coda di detriti, come ha fatto il robottino a non essere investito e sbattuto via? Allora, la missione Rosetta, ricordiamoci che ci ha messo 10 anni di viaggio interplanetario per approcciare la cometa, in un momento in cui la cometa è ancora distante dal Sole, era distante 450 milioni di chilometri dal Sole nel momento clou dell'atterraggio poche settimane fa. A questa distanza la cometa è ancora in una situazione tranquilla, si risveglierà e comincerà a emettere gas man mano che si avvicinerà al Sole, perché aumenterà la quantità di energia che riceve. Mm. L'energia solare farà sublimare le parti esterne della cometa, che vuol dire che il ghiaccio si trasformerà in vapor d'acqua, fondamentalmente senza passare per lo stato di acqua. Mm. La cometa non si scioglie ed evapora, ma sublima. Allora, il ghiaccio ha intrappolato anche della polvere e quindi del gas, eccetera, e quindi tutto questo viene liberato. Ok, quindi abbiamo scoperto che le comete ogni tanto hanno la coda, insomma, quando vanno vicino al sole. Hanno la coda quando sono vicini al Sole, e la cosa più bella di tutte è che la coda è sempre rivolta in direzione opposta al Sole. Al Sole, ok. Perché questo materiale che viene messo dalla cometa, materiale che viene pettinato dal vento solare. Insomma, va dal parrucchiere, gli pettina, gli fai i capelli. Sì, come quando c'è un phon, ecco, esatto. Puntato. Ok, e il fatto che appunto il lander non sia stato toccato da questa coda, appunto ci hai risposto perché era lontano dal Sole. Sì, è stato proprio una scelta programmatica della missione atterrare il robottino, okay, nel momento di maggiore tranquillità. Altra domanda che questa arriva da un ascoltatore, ci ha inviato una mail il signor Norberto e ci dice, vabbè, in seguito appunto alla missione Rosetta si è detto tanto su quelli che sono gli aminoacidi, cioè questo lander che insomma ha fatto dei rilievi sul suolo della cometa, sembrerebbe che abbia rilevato insomma questi aminoacidi, ancora non si sa, stiamo aspettando le analisi, che però ci darebbero informazioni sulla famosa origine della vita. Allora Norberto ci chiede, visto che le comete insomma sono così gli oggetti più vecchi del nostro sistema solare, che appunto arrivano dalla zona più inospitale di questo sistema, qual è il ragionamento che sta dietro l'idea che proprio da qui sia originata la vita e poi anche la vita sulla Terra? Cioè la cometa cade sulla Terra, cade su un pianeta e porta la vita. Lui dice, ma come fanno ad esserci degli aminoacidi? Magari delle molecole d'acqua sì, ma gli aminoacidi com'è possibile? Allora, prima di tutto diciamo che l'acqua è la molecola più abbondante dell'universo dopo la molecola di idrogeno, quindi perché è una molecola fatta di idrogeno e di ossigeno ed è stabilissima, una volta che si è formata è difficilissima da rompere. Quindi step numero uno, l'acqua è la molecola più abbondante dell'universo. Step numero due, quando noi facciamo delle osservazioni radio nubi molecolari per esempio, vediamo che queste nubi sono delle ubriacone, perché ad esempio contengono tutti i tipi di alcol, quindi contengono tutta una serie di molecole organiche complicate che evidentemente riescono a formarsi nello spazio interstellare. Quindi la formazione di molecole organiche non è, diciamo, un evento così eccezionale, se vogliamo, è un evento abbastanza normale in alcuni ambienti astrofisici, tipicamente le nubi molecolari, perché queste nubi in qualche modo riparano le molecole che si formano dall'azione distruttiva dei raggi ultravioletti che sono prodotti dalle stelle. Le molecole organiche, quelle sì, sono facilmente rompibili, a questo punto riescono a sopravvivere solo dove sono protette. Diciamo il disco protoplanetario, cioè il disco dal quale si formano i pianeti intorno a una stella, è un concentrato di nube molecolare fondamentalmente. Gli aminoacidi sicuramente ci sono, noi abbiamo già visto aminoacidi nei vapori emessi da un'altra cometa, la cometa Wild 2 per esempio. La NASA ha passato un racchettone su una sua missione che si chiamava Stardust, che ha raccolto un briciolino di polveri di cometa, è ritornato a Terra, queste sono state analizzate. E è stato trovato dentro un aminoacido, ed è un aminoacido non di tipo terrestre, perché contiene un isotopo del carbonio che sulla Terra è abbastanza raro, ma comunque siamo sicuri che è un aminoacido della cometa, non è un aminoacido di contaminazione del laboratorio. Quindi quando io ho letto questi comunicati che dicevano Phile ha visto molecole organiche, ho detto e allora sarebbe stato stranissimo se non le avesse viste. Il fatto che le comete contengano molecole organiche non è un evento eccezionale, non è una scoperta strabiliante. La persona che per prima ha immaginato che la vita sulla Terra potesse essere portata dalle comete è stato un grandissimo scienziato inglese, Fred Hoyle, che era anche uno straordinario scrittore di fantascienza. Non so se vi ricordate La nuvola nera, come Andromeda. Nuvola nera è proprio bellissimo. È un romanzo fantastico dove si vede una fantascienza realistica scritta da un grande scienziato. E Fred Hoyle sosteneva che secondo lui la vita poteva essere stata seminata sulla Terra dalle comete, che appunto nella loro coda liberano materiale organico che magari cade su Venere e viene vaporizzato perché fa caldissimo, cade sulla Terra e trova delle condizioni favorevoli e magari inizia una chimica che piano piano porta alla formazione delle molecole del DNA replicante. Però ancora siamo un po' lontani, insomma, da assolutamente è la differenza tra andare a comprare, diciamo, i mattoni, le piastrelle per fare una casa e vedere una casa intera realizzata. Va bene, ce ne passa. Ultima domanda, Patrizia. Allora, il robottino si è avvicinato alla cometa a una velocità molto bassa, cioè un metro al secondo, abbiamo letto. Però la cometa andava a 60.000 chilometri orari e quindi anche il robottino aveva praticamente la stessa velocità. Qui, se la differenza era di 50 chilometri orari, non avrebbe potuto raggiungerla. Come hanno fatto ad avere questa precisione totale di arrivare lì dopo 10 anni e fare esattamente la stessa velocità? Questo qui bisogna dire bravi al team del Flight Dynamics, si chiama, che gestisce le missioni dell'Agenzia Spaziale Europea e in particolare ha gestito Rosetta. Sono stati straordinari. Straordinari, davvero. Straordinari. Quindi sostanzialmente l'avvicinamento è quello che si può fare, diciamo, classicamente come principi fisici, solo che devi essere mostruosamente bravo. Perché File è sceso senza motori, quindi quando l'hanno staccato da Rosetta e gli hanno dato un calcetto per metterlo in rotta balistica verso la cometa, hanno fatto un gol preciso. Hanno dovuto scegliere il momento esatto per farlo. E Patrizia, velocissimi, in conclusione, File si risveglierà, insomma, qual è, insomma, un po' il suo futuro? Questi pannelli solari gli daranno un po' di energia? Io penso di sì, perché File a questo punto è una bella addormentata e il suo principe azzurro si chiama Sole, quindi man mano che si avvicinerà al Sole aumenterà l'irraggiamento. Magari la cometa bacerà e si sveglierà. Sì, la bacerà e lei si sveglierà. E vissero tutti felici e contenti, speriamo. Magari per pochi minuti al giorno, magari per poco, ma abbastanza per fare qualche esperimento e spedire i dati. Per farlo risvegliare. Va bene, grazie Patrizia, davvero, buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Arrivederci, ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni anno vengono venduti oltre 2,5 miliardi di paia di jeans nel mondo, Chiara. Molti di questi... Quanti? Non avrei mai detto. Vengono fatti in gran parte nel Far East, come si dice, cioè in Asia. Secondo vari studi e indagini, il Bangladesh, soltanto questa regione, ne esporta all'anno oltre 200 milioni di paia. Dobbiamo partire da questo, prodotto in condizioni di sfruttamento e di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e le cronache ci hanno raccontato molti, no, di questi episodi. E qui però stasera vogliamo parlare del jeans, del denim, dal punto di vista anche ambientale, perché appunto anche se il jeans è fatto di cotone, quindi è una fibra naturale, il suo impatto ambientale è molto molto elevato. Qui con noi stasera c'è Aurora Magni, intanto buonasera. Buonasera. Lei è presidente di Sustainability Lab, che è una società che si occupa di sostenibilità nel tessile e nel mondo della moda, e quindi vogliamo un po' raccontare anche agli ascoltatori che, seppur, come abbiamo detto, il cotone è una fibra molto naturale, in realtà ci sono diversi problemi poi nel lavorarlo. Sì, effettivamente il cotone è una delle principali fibre tessile utilizzato al mondo, è una fibra fantastica, ma ha un impatto ambientale non marginale, perché occupa molti territori, ha bisogno di molta acqua e soprattutto viene coltivato con un grande uso di sostanze chimiche come diserbanti, fertilizzanti. È vero che si parla molto di cotone biologico ed è una storia affascinante, bellissima, ma purtroppo alla fine il cotone coltivato con queste caratteristiche è lo 0,4% al mondo, quindi stiamo parlando davvero di una nulla, direi. Sì, purtroppo gran parte del cotone ha comunque una storia di utilizzo di risorse naturali rilevante. Poi immaginate che il cotone comunque non cresce in Europa, cresce in Africa, in Asia, e quindi arriva nelle imprese che poi lo trasformano in filati e in tessuti, ma spesso ha grandi viaggi alle sue spalle. Sono poche le aziende che fanno tutto al loro interno, noi ne abbiamo alcune in Italia, è questo grande patrimonio, cioè aziende verticalizzate che ricevono il cotone sodo, lo trasformano in filato, poi in tessuto, poi lo tingono e alla fine in alcuni casi addirittura lo confezionano, ed è un grande patrimonio italiano, perché l'impatto, diciamo, ambientale della lavorazione non è affatto marginale, stiamo parlando di grandi aziende, quindi con consumi energetici forti, acqua di processo, ma soprattutto poi ottenere un tessuto colorato, bello, con la mano giusta che la moda ci chiede, vuol dire operare con grandi quantitativi di sostanze chimiche. E qui va proprio fatta una premessa, cioè le produzioni europee italiane sono sottoposte non solo alle leggi di tutela ambientale, ma soprattutto al regolamento REACH, che è molto restrittivo rispetto all'uso di sostanze chimiche considerate pericolose per l'uomo o inquinanti. Regolamento europeo, no? È un regolamento europeo che è in vigore da alcuni anni e che esercita forti controlli sulle produzioni europee e quindi anche sulle nostre. Naturalmente noi non possiamo essere sicuri che quello che arriva dall'estero, soprattutto dal Far East, sia stato realizzato con la stessa attenzione, per cui spesso su tessuti di importazione o peggio su capi di importazione noi ritroviamo sostanze decisamente pericolose per chi poi indosserà anche il capo. Dicevo però che per fortuna noi in Italia abbiamo esperienze molto interessanti che agiscono sia sulla sicurezza del prodotto che sulla riduzione degli impatti ambientali. Ad esempio la ricerca scientifica ormai ha messo a disposizione di queste aziende trattamenti enzimatici che sono veramente l'alternativa a operazioni come la famosa sabbiatura del jeans, di cui avrete senz'altro sentito parlare. Sì, poi durante il corso di questa puntata abbiamo selezionato un paio di aziende eccellenti che appunto lavorano il jeans in maniera sostenibile. Fantastico, quindi sono aziende che hanno di solito una stretta collaborazione con istituti di ricerca e università, e questo ha davvero permesso di ridimensionare l'impatto ambientale di questo prodotto. L'ultima cosa che mi sembra giusto segnalare è il fatto che le aziende stanno molto attente quindi alle tipologie di sostanze chimiche che utilizzano, soprattutto a seguito della pressione di movimenti ambientalisti come Greenpeace, che hanno ottenuto la sottoscrizione da parte di importanti brand della moda al famoso impegno detox. Detossico, cioè eliminare le sostanze tossiche dalla lavorazione. Esatto, vengono eliminate in questo momento 11 classi di sostanze tossiche che sono le stesse indicate come pericolose dal REACH, ma con detox si arriva all'eliminazione totale, mentre il REACH ne consente in alcuni casi un utilizzo in condizioni di controllo rigoroso, ma insomma. Aurora Magni, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Adesso noi abbiamo due aziende, no, Chiara, che lavorano proprio, italiane, che lavorano con grosso successo nel risparmio, nella sostenibilità. E il primo che abbiamo con noi questa sera è Mauro Cianti. Buonasera Cianti. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Buonasera. Allora, lei è il direttore della Fimatex. Va bene. Azienda abruzzese che si distingue appunto per essere una delle massime produttrici di materiale jeans, insomma di denim. Quello che è la tendenza adesso è avere un po' il jeans scolorito, un po' sdrucito, un po' consumato. Però questa pratica che si chiama sabbiatura, adesso ci racconterà di che si tratta, in realtà non è per niente ecologica, anzi fa anche diversi danni alla salute di chi lavora del lavoratore, insomma, che lavora sulla catena di montaggio. Quindi magari ci dica un po' che cos'è la sabbiatura e poi come avete pensato di risolvere il problema. Certamente la sabbiatura del jeans e i modi con i quali i jeans vengono scoloriti sono sicuramente un tema che ha fatto tanto discutere soprattutto negli ultimi tempi. Sulla sabbiatura in particolare c'è stato un grandissimo movimento europeo partito un po' da Amsterdam, da questa associazione che si chiama Abiti Puliti, che ha messo in evidenza effettivamente in nazioni che sono grandi produttori di jeans come appunto la sabbiatura possa creare dei danni ai lavoratori. Di fatto che cos'è la sabbiatura in due parole? La sabbiatura è un processo molto semplice attraverso il quale viene sparata proprio con l'aria compressa questa sabbia sul jeans, che appunto toccando il jeans con l'aria compressa ad alta pressione viene scolorito sostanzialmente. Che cosa succede? Che nella sabbia, soprattutto la sabbia calcarea, contiene il silicio. Il silicio è una sostanza che a contatto con il jeans viene praticamente polverizzata, mm-hmm. e se l'operatore che lavora il jeans non è adeguatamente protetto con i dispositivi di sicurezza adeguati, succede che respirando questa sabbia, diciamo, polverizzata, respira anche il silicio. Il silicio arriva nei polmoni e genera questa malattia che si chiama silicosi. Antica malattia dei minatori, no, di tanti anni fa, tremenda. Esattamente, esattamente. Certo. Questo problema è un problema, come ripeto, principalmente dei paesi dove vengono prodotti jeans a basso costo, perché se il lavoratore è adeguatamente protetto questo problema non esiste. Abiti Puliti e anche varie testate, autorevolissime testate nazionali ed internazionali, parlano di 10.000 malati nel mondo del denim, che se ci riflettete sono dati da guerra civile. No, infatti, ma lei ha pensato insomma in azienda come risolvere il problema? Sì, intanto dico che la nostra azienda sono 30 anni leader sicuramente indiscusso sulle sabbiature in Italia e in Europa, e in 30 anni di attività non abbiamo mai avuto un caso di malattia professionale per sabbiatura, mai. Pur utilizzandola, quindi utilizzandola come le ho detto prima, utilizzando anche i giusti dispositivi di protezione e di sicurezza, abbiamo pensato come risolvere questo problema proprio alla base e abbiamo creato questo sistema che si chiama Ecoaging, che va a sostituire completamente la sabbiatura, sostituendo proprio la materia prima, quindi non usando più la sabbia tradizionale ma un composto biologico, fra l'altro derivante da materiale vegetale, composto anche da tipo scarti legnosi, scarti di cibo trattati. Siamo riusciti a ricreare questa, con un brevetto fra l'altro interno all'azienda, siamo riusciti a ricreare questa sabbia, diciamo, ecologica, e quindi risolvendo il problema alla radice, perché essendo una sabbia vegetale non ha più il silicio dentro, e certo, quindi abbiamo risolto il problema alla radice. Probabilmente si decompone e anche. L'effetto è lo stesso di invecchiamento del jeans. Esatto, okay. Il grande successo è stato che avendo cambiato anche la materia prima abbiamo ottenuto lo stesso effetto di scoloritura sul jeans. Mauro Cianti, ci siamo sentiti prima dell'intervista, abbiamo parlato di Rio delle Amazzoni, come mai? Abbiamo parlato di Rio delle Amazzoni perché sempre in un concetto di sostenibilità nella produzione del jeans ci sono dei dati incredibili di consumo di acqua, che è un altro tema molto importante ed attuale in questo settore. Immagini che per produrre un jeans ci vogliono mediamente, soprattutto nella fase di lavaggio, quindi di finissaggio tessile, ci vogliono più o meno dai 40 ai 50 litri d'acqua, che si è moltiplicato per il numero di jeans che vengono prodotti. Che sono quanti? 2,5 miliardi, abbiamo detto? Questo è il dato abbastanza ufficiale. Quindi per produrli tutti ci vorrebbe Rio delle Amazzoni. Vorrebbe Rio delle Amazzoni, è chiaro. E questo problema delle acque, crea due tipi di problema. Uno all'ingresso dell'acqua, quindi proprio come consumo di acqua, e uno alla fase di uscita, quindi alla fase di depurazione. In molti paesi, chiaramente, non in Italia, non in Europa, grazie a Dio, però in molti paesi non hanno gran rispetto per l'ambiente, e quindi le acque non vengono depurate adeguatamente e dunque vengono scaricati comunque in natura una serie di sostanze chimiche assolutamente non depurate. È notizia di pochissimo tempo fa che in Cina un fiume è diventato rosso. Non sia. Sì, sì, cioè perché praticamente l'acqua di scarico non era stata depurata e quindi i coloranti sono... Però voi ne consumate poca, pochissime. Allora, noi di acqua ne consumiamo, però abbiamo messo anche qui appunto un processo che si chiama Zero Water Wash, che riduce il consumo di acqua nella produzione di un jeans di circa il 90%. Quindi siamo riusciti solo con 4 litri d'acqua al posto dei 40/50 standard ad ottenere un effetto vintage, un effetto comunque modaiolo ed un effetto di grande impatto al consumatore finale. Senta Cianti, velocissimo, in conclusione, per noi consumatori come facciamo a scegliere un jeans appunto che abbia rispettato questo processo ecologico di cui lei ci ha parlato? Velocissimamente direi una cosa, compriamo il Made in Italy, perché se compriamo il Made in Italy siamo sicuri che ci sono una serie di processi, di controlli e in tutta la filiera, anche perché non dimentichiamo, il jeans l'abbiamo inventato noi in Italia, si chiama jeans perché deriva da Genova e dunque l'abbiamo inventato noi, il primo ad avere i jeans era Garibaldi e non Levi's o Levi's come dicono gli americani. Compriamo Made in Italy e siamo sicuri di comprare un buon prodotto. Bene, grazie Cianti, buon lavoro davvero. Saluti. Restiamo sui jeans, abbiamo già detto che sono centinaia di milioni di capi ogni anno, e allora c'è un'altra cosa che con i jeans è strettamente legata. Ne parliamo con Claudio Goffredo. Buonasera Goffredo. Buonasera a lei. Amministratore delegato di Zip GFD SPA, ecco, ho sottolineato quello Zip perché l'altro oggetto presente in tutti i jeans è la cerniera lampo. Dal punto di vista della sostenibilità l'abbiamo invitata qui perché la vostra azienda che fa cerniere lampo è un altro modello per capire come si può produrre in modo sostenibile. Cosa fate voi con le cerniere lampo? In effetti jeans non è solamente il classico tessuto denim, ma anche accessori metallici quali chiusure lampo, bottoni a pressione, certo, rivetti. Certo, anche i bottoni, è vero, certo. E in particolare le chiusure lampo, occorre dire che coinvolgono competenze diverse, tipo tessili, meccaniche, chimiche. E queste ultime, specie per la ecosostenibilità, riguardo i processi di tinturia e di galvanica. Sì, la galvanica è quella che dalla la colorazione, in pratica, non sono stato precisissimo. I materiali di base che si utilizzano normalmente sono leghe a base di rame, però noi vediamo gli accessori metallici che possono essere colori bianchi o toni anticati o lo stesso ottone o bruniti e così via di seguito. E questo si fa con processi galvanici. Esatto, esatto. Immagino però che nella vostra produzione ci siano tante fasi diverse. Com'è che riuscite a ottenere sostenibilità in tutte? Beh, attraverso, innanzitutto è opportuno avere all'interno della propria azienda tutti i processi produttivi. Per fare una chiusura lampo immagini che occorrono anche oltre 20 fasi di lavorazione, per cui il controllo step by step è assolutamente fondamentale. E non potete dare fuori, bisogna che ci sia tutto all'interno della stessa azienda. Beh, devo dire che in effetti aziende a ciclo completo in Italia ce ne sono poche. Molte si vendono come produttori, ma in effetti sono degli assemblatori. Allora, cosa abbiamo fatto noi per avere sia dei processi produttivi ma anche dei prodotti ecosostenibili? Innanzitutto siamo partiti dalla localizzazione, infatti nel nostro terzo stabilimento che si è inaugurato nel 2008 lo abbiamo geolocalizzato in maniera tale da essere in posizione ottimale per coprire il nostro fabbisogno energetico con pannelli fotovoltaici, e questo significa non solo riduzione di energia tal quale ma anche minori emissioni per diverse centinaia di tonnellate di CO2 anno. Poi, per quanto riguarda invece i processi produttivi veri e propri, in cui abbiamo agito, specialmente nel reparto galvanica, abbiamo agito su più fronti. Ecco, uno di questi è un impianto per i processi di nobilitazione superficiale dei metalli, a totale riciclo di acqua e senza impiego di prodotti chimici. Bene, grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie, grazie anche a lei. Adesso diciamo due cose, dico io la prima? Vai! Allora, andate al nostro blog, lo trovate andando al sito della radio, vedrete lì uno speciale dedicato ai vaccini, non quello anti-influenzale, al problema generale dei vaccini. È un'intervista lunga con 3 super esperti, dura 25 minuti, però insomma, per capire tutti gli aspetti di questa cosa andate lì e avete un quadro generale. Invece io ci tengo a ricordare della manifestazione Stelle di Natale dell'AIL, che è giunta alla 25esima edizione, insomma l'Associazione Italiana contro le Leucemie i linfomi e i mielomi, organizza per queste giornate, quindi oggi, domani il 7 di dicembre e l'8, quindi anche lunedì che sarà festa, in oltre 4.000 piazze italiane si potranno comprare le stelline di Natale con un contributo minimo di 12 euro, quindi mi raccomando, aiutiamo. Fatelo. La ricerca. Grazie e buona serata a tutti e a tutte.